In primo piano. Le aperture sono diversificate, c'è chi punta al giorno della memoria, celebrato ieri, con anche delle minacce incredibili dall'Iran, fatte volutamente il giorno della memoria. Minacce nel giorno della Shoah. L'Iran, Israele sparirà. Scritte antisemite a Roma, così il Corriere della Sera. Shoah, la memoria oltraggiata per il Messaggero. Mentre c'è chi sceglie, diciamo, tra giustizia e politica. La Repubblica, anno giudiziario, toghe in rivolta, via quando parlerà il governo. Così anche La Stampa, la linea dura dei magistrati, sedie vuote contro il Premier. Andiamo al Sole 24 Ore, l'apertura è una novità, insomma un qualcosa di esclusivo che ha solo il Sole. Ieri si è svolta tra l'altro la tradizionale edizione di Telefisco. Scudo 2, ecco le regole. Tremonti, le aliquote alte sono un alibi per l'evasione. In arrivo sono le istruzioni sostanzialmente per i rientri dei capitali, una circolare dell'Agenzia delle Entrate che vedremo. Allora, come detto, ieri c'è stata la giornata della memoria. Potete trovare tantissimi spunti, tantissimi commenti, anche sdegnati, sia per la posizione dell'Iran, che ha detto cancelleremo Israele, sia soprattutto soprattutto perché ci riguarda più da vicino, sono venute più da vicino queste scritte oltraggiose, svastiche e scritte, oltraggio in via Tasso, per esempio, scrive a pagina 3 il Corriere della Sera, offese a Riccardo Pacifici, che è esponente della comunità ebraica romana, e al sindaco Alemanno. Voglio solo citare però, perché per il resto leggerete molto, per esempio anche dell'intervento alla Camera di Elie Wiesel, Nobel per la pace, ebreo sopravvissuto all'Olocausto, che ha fatto un intervento molto appassionato, molto interessante, come sempre quando parla. Gian Antonio Stella, oggi in prima pagina del Corriere della Sera, racconta la storia che già raccontò un paio di mesi fa di Settimio Calò, persona che viveva al ghetto di Roma, che viveva al portico d'Ottavia, nel cuore del ghetto della capitale, 10 figli, tutti da citare: Bellina, Esther, Rosa, Ines, Elena, Angelo, Nella, Raimondo, Samuele. Uscì di casa un giorno perché pensava di andare a comprare le sigarette, perché aveva avuto una soffiata, un tabaccaio sarebbe stato rifornito. Tornò a casa e la moglie e i 10 figli erano stati portati via. Ebbene, Gian Antonio Stella racconta: il buco nello stradario di Roma sta finalmente per essere riempito. La capitale avrà una via dedicata a Settimio Calò, l'ebreo che perse ad Auschwitz la moglie e 10 figli, la cui storia racchiude l'intera tragedia degli ebrei romani sconvolti dalla retata del 16 ottobre 43. Lo ha deciso il sindaco Alemanno. E mai annuncio è stato così opportuno, scrive Stella. Proprio ieri mattina, infatti, una serie di scritte infami sui muri di Roma hanno ricordato che il giorno della memoria non è soltanto una ricorrenza più o meno burocraticamente scontata. Dunque ci sarà una strada per Settimio Calò, che il Corriere aveva denunciato un paio di mesi fa, è stato troppo a lungo dimenticato proprio per la sua storia così, così drammatica, che oggi potete anche rileggere sul Corriere della Sera. Ma lasciamo questo tema, di cui veramente trovate molto sui giornali, veniamo alle cose più terra terra, politiche. La politica si interroga su quello che succederà ora sulle regionali e le candidature. Voglio però partire da un intervento che il Corriere della Sera ospita e riguarda la giustizia. Avete sentito l'ANM all'apertura dell'anno giudiziario annunciato: quando parlerà il governo noi ci alzeremo, perché basta provvedimenti ad personam, eccetera. L'ospite sul Corriere della Sera oggi è Adriano Celentano. Non sarà un tecnico, ma sapete che quando fa raramente qualche intervento, l'ultimo fu abbastanza incredibile sulle centrali nucleari su Repubblica, oggi parla del processo breve, di giustizia. Processo breve, mi basta che sia giusto, di Adriano Celentano, lo trovate a pagina 13 del Corriere della Sera. E la proposta, quella che fa un po' discutere, è questa. Insomma, che piaccia o no, scrive Celentano, chi governa in questo momento è Berlusconi. L'impressione che io ho di lui, pur non condividendo la sua politica, è di un uomo i cui errori, se ci sono, e credo che ci siano, non nascondono però la volontà e le buone intenzioni di lavorare per il bene del paese. Certo, il suo modo di concepire il bene potrebbe non essere l'ideale, francamente Io non solo non lo concepisco, ma credo si vada incontro a una vera catastrofe, tanto per dirne una, costruendo le nuove centrali nucleari. Eccolo qua, è la fissa, le centrali nucleari ci sono sempre. Fatto sta però, dice Celentano, che a questo punto credo valga la pena considerare che bisogna, sono maturi i tempi per far cessare l'asfissiante braccio di ferro tra i giudici che vogliono far cadere Berlusconi e Berlusconi dall'altra parte. E come? Basterebbe una leggina ad personam che dia l'opportunità di azzerare tutto a partire dai processi di Berlusconi e ricominciare da capo, affinché egli, non avendo più la spada dei giudici sulla testa, possa sedersi tranquillamente al tavolo con l'opposizione per fare una vera riforma della giustizia. Insomma, dice Celentano, una leggina ad personam, quella di cui parlava anche D'Alema, l'unica via per poter sciogliere quel granellino di sabbia che, bloccando il motore della giustizia, paralizza l'intera società col rischio di gravi infezioni. Cioè, azzeriamo i procedimenti al Premier e facciamo la riforma. Questo propone Celentano. Allora, come detto, le regionali, ieri ne avevamo parlato, a Berlusconi non piaceva questa candidatura pugliese di tale Rocco Palese e ieri Berlusconi, vedete, in giornata ha detto facciano un passo indietro sia Palese, il nostro candidato, che ha già detto va bene, faccio un passo indietro, sia la Poli Bortone dell'UDC, e che però resiste perché ci vuole un candidato terzo che metta insieme UDC e PDL, un candidato nuovo che ci faccia vincere. Sulla stampa parla Adriana Poli Bortone, l'ex primo cittadino di Lecce, che dice certo Berlusconi vorrebbe me, l'ha detto più volte. Il presidente mi vorrebbe, me l'ha detto tante volte anche di persona. Poi giovedì scorso mi ha telefonato, racconta ad Antonella Rampino, Adriana, abbiamo solo il 50% di possibilità di candidarti, hai contro AN. E sa perché ho contro AN, gli avevo detto io, perché AN in Puglia non conta più niente. È di Fitto il sindaco di Lecce, il presidente della provincia di Bari, il sindaco di Brindisi, il presidente di Barletta Andrea Trani. AN ha solo la provincia di Foggia. Insomma, Adriana Poli Bortone pare voglia resistere alla richiesta di Berlusconi, ma vedremo quando andrà a finire, di fare un passo indietro perché ci vorrebbe un terzo candidato, un nuovo candidato per Berlusconi. L'altra vicenda che da qualche giorno sta tenendo tutti un po' col fiato sospeso è quella di Bologna, dove il sindaco che ha annunciato le dimissioni ma non le ha ancora date le dimissioni, quindi non si capisce se si andrà a votare adesso oppure no, pare che la deadline sia il 12 febbraio, cioè se si dimette entro il 12 febbraio si riesce a votare a marzo, altrimenti i tempi tecnici non ci sono. Del Bono rimanda l'addio, voto più lontano, così si legge dal Corriere della Sera, PD spaccato sulla data, e c'è anche questa notizia tra l'altro che viene lanciata così dal Corriere della Sera. La Cracchi, cioè Cinzia Cracchi, l'ex compagna e segretaria che ha scatenato con le sue confessioni dicendo mi portava in giro per il mondo e forse dovete vedere chi andava a pagare se si pagava coi conti della regione. Ebbene, udite udite, Cinzia Cracchi dice la politica, se me lo chiedesse Di Pietro, potrei prenderla in considerazione. E dunque, chissà, forse vedremo Cinzia Cracchi candidata con l'Italia dei Valori. Ma sempre il Corriere della Sera amplifica quello che è un gossip che è stato lanciato da Dagospia, il sito di D'Agostino, e che poi si sa, da una voce che si rincorre, si ingigantisce, eccolo qui il nuovo gossip. Il gossip vorrebbe che Flavio Del Bono, sindaco dimissionario di Bologna, potrebbe avere una relazione con Nicoletta Mantovani, vale a dire la vedova Pavarotti. La Mantovani, io e Flavio, lo stesso veleno che ha colpito lui. Certo, tutto chiaro, dice Nicoletta Mantovani in questo sfogo. Mi chiedono di fare l'assessore, quindi automaticamente sono l'amante del sindaco. Sono una donna del resto, e l'unico modo nel quale una donna può far carriera è andando a letto col suo capo, non è così? Ragionamento che non fa una piega. Che vergogna, che schifo. Racconta così il suo sdegno a Marco Imarisio, doveva accadere prima o poi. Quando viene giù tutto si salva chi ha le spalle coperte. Nicoletta Mantovani invece rappresenta solo se stessa. Però dice che schifo, L'altro giorno il sindaco ci ha salutato, ci ha chiesto scusa, ci ha ringraziato per quello che avevamo fatto in questi mesi. Nessun problema a dire che ho pianto, che mi veniva da singhiozzare. E su Del Bono la Mantovani dice: rimango convinta che abbia pagato un prezzo troppo alto, sia stato lasciato solo, può aver commesso degli errori, ma è stato investito da una dose di veleno senza precedenti. Non gli hanno concesso neppure l'onore delle armi. Su questo tema delle dimissioni sì o dimissioni no... Allora, ieri Galli della Loggia, nell'editoriale del Corriere della Sera che abbiamo citato, parlava chiaramente di dire adesso basta, dopo il caso Marrazzo, il caso Del Bono, insomma altri casi, questa presunta superiorità morale della sinistra di cui si parla da tanti anni deve essere messa in discussione, non c'è più. Su questo tema ecco Vittorio Feltri. L'editoriale di prima pagina del Giornale, il cui titolo è sulle regionali della Puglia, Berlusconi rovescia al tavolo, ma è questo: l'inferiorità morale della sinistra. Insomma, fa un lungo excursus Vittorio Feltri, partendo proprio dall'editoriale di ieri di Galli della Loggia, e dice: viene il sospetto, la sinistra attuale, che non siano neanche più di sinistra, gli fa schifo il popolo, la popolazione, pure la gente, hanno lo stesso comportamento che rimproverano da sempre alla destra. E ora, constatando che la loro sbandierata superiorità morale e culturale era una meschina millanteria, vanno in depressione e per curarla si coprono le vergogne con la foglia di fico, cioè Di Pietro. Ingenuamente sperano di farla franca. E poi ricorda alcuni casi: Marrazzo se n'è andato sì, ma quando il PD gliel'ha ordinato. In Puglia è successo di tutto nella giunta di Vendola, ma Vendola è ancora lì. Bassolino per Napoli e la Campania è come il Vesuvio, nonostante le magagne è accettato perché è elemento fisso del panorama. La Iervolino idem. Quanto al sindaco di Bologna, volevo vedere che non si dimettesse e ho citato solo i casi più clamorosi. La lettura opposta invece c'è su Il Fatto. Il Fatto Quotidiano di oggi mette in prima pagina proprio quelli del centrodestra, per esempio c'è Berlusconi, Cosentino, il sottosegretario, il ministro Fitto, Formigoni, Dell'Utri, indagati e processati, ma questi qui non si dimettono mai. E a pagina 3 Marco Lillo scrive proprio questo: dimissioni zero. Le dimissioni sono un atto dovuto quando si è indagati per peculato e truffa aggravata, come il caso di Del Bono, e ora anche per che è indagato ora anche per dichiarazioni mendaci. Il Fatto Quotidiano non ha mai fatto sconti ai politici di centrosinistra pugliesi e abruzzesi coinvolti nei due scandali scaturiti dalle spese della sanità. Siamo stati i primi a chiedere le dimissioni di Marrazzo. Ma non si può continuare a far finta di niente di fronte alla sconcertante disparità di trattamento tra destra e sinistra. Insomma, e qua fa l'elenco di Lillo, Marco Lillo, di Dell'Utri, Berlusconi, Raffaele Fitto, chi condannato come Dell'Utri in primo grado, chi è sotto processo come Berlusconi, insomma vari casi, Nicola Cosentino per cui è stato richiesto l'arresto, e dice questi invece non se ne vanno mai. Questo è il tema, insomma, un po' anche interessante, visto da destra e da sinistra. Allora, questo è il panorama della politica, il piatto della politica del giorno. Noi ripartiamo dall'economia e dal Sole 24 Ore subito dopo le informazioni sul traffico. In primo piano. Scudo 2, ecco le regole. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Ieri si è svolto il tradizionale appuntamento di Telefisco, di cui trovate ampi resoconti, tre pagine all'interno, e c'è anche appunto a pagina 8 Isabella Bufacchi e Marco Mobili raccontano di questa circolare in arrivo è un'esclusiva, insomma, del Sole 24 Ore, in arrivo dell'Agenzia delle Entrate riguardo allo scudo, come, insomma, fare le regole per mettere tutto in regola i rimpatri di capitali. I rimpatri effettivi di attività detenute illegalmente all'estero dovranno essere definitivamente conclusi entro il 31 dicembre 2010. Questo sia per quanti hanno aderito allo scudo TER versando l'imposta straordinaria del 5% entro il 15 dicembre 2009, ma non hanno potuto completare la procedura, sia per i contribuenti a loro volta alle prese con lungaggini che intendono aderire alla riapertura dello scudo, vale a dire lo scudo 2, versando il 6% entro il 28 febbraio e il 7% entro il 30 aprile. Questo è il succo del circolare snella, definita 9 pagine, col quale si vuole sgombrare il campo dai dubbi legati soprattutto alle nuove operazioni di emersione. Ne potete leggere sul Sole 24 Ore. Come invece, ampliando il tema più finanziario mondiale, leggete sul Sole 24 Ore lo sfogo di Sarkozy al World Economic Forum a Davos. Si parla di banche, insomma, sapete che Obama dall'altra parte dell'oceano ha strigliato le banche, ha anche detto vuole separare in qualche modo l'aspetto più delle attività bancarie in senso stretto da quello delle attività finanziarie, di hedge funding, private equity. Insomma, dividere un po' le due grandi attività di una banca. Su questo, ieri ha parlato Sarkozy, ha detto sulle banche decide il G20. Sostanzialmente Sarkozy ha detto, il presidente francese, che la linea americana è condivisibile, ma la critica, e qui incarna un po' lo spirito europeo, un paese non può andare avanti da solo. E dunque sono i due punti di vista definiti da Vittorio Darold sul Sole, opposti, due filosofie quasi inconciliabili. C'è anche l'intervento di Passera come opinione dei banchieri, giusta l'idea americana della separazione delle due attività, ma non bisogna distruggere il valore degli istituti che fanno entrambe le cose, cioè il rischio di una separazione troppo netta che rischia di penalizzare quegli istituti che fanno entrambe le attività, dice Passera. Così come trovate, sempre per quel che riguarda l'economia e la finanza più italiana ma anche mondiale, insomma, gli sviluppi di quella che viene definita alta tensione sulla cassa Fiat. A pagina 10 del Sole, Carmine Fotina, sostanzialmente, sapete, la Fiat ha annunciato due settimane di cassa integrazione a cavallo tra febbraio e marzo in tutti gli stabilimenti. Esponenti degli esecutivi, dal ministro Scajola, si sono detti contrari. Domani c'è anche un incontro, tra l'altro un tavolo tecnico sul futuro dello stabilimento siciliano di Termini Imerese. Non vi parteciperà Marchionne, che scrive Repubblica, pagina 3. Marchionne vola a Detroit e tra l'altro dice: ho sempre detto che non avrei partecipato. E comunque, dice anche Marchionne, non c'è alcun ricatto e tra l'altro l'esecutivo sapeva da tempo, cioè il governo sapeva da tempo della decisione della cassa integrazione. Vabbè, rimaniamo sul Sole 24 Ore, anche se in realtà lo trovate su tutti i giornali, campeggia in prima pagina, è una rivoluzione in 680 grammi, così la definisce Antonio Dini, o meglio il titolo dell'articolo di Antonio Dini da San Francisco. Stiamo parlando della nuova invenzione lanciata da Steve Jobs, l'ultimo prodotto della Apple è l'iPad. L'iPad è questa tavoletta presentata a San Francisco, in tutto il mondo. Con quella leggeremo libri e giornali, guarderemo i video e navigheremo la rete tra meno di 2 mesi. Steve Jobs, definito come l'affaticato numero uno di Apple, insomma reduce anche da una lunga malattia, nominato da poche settimane il personaggio più influente del decennio, ha mostrato, eccolo lì, il nuovo iPad, un tablet PC multitouch con caratteristiche analoghe a quelle dell'iPhone e l'iPod Touch. 9.7 pollici di schermo, batteria da 10 ore, 1,2 cm di spessore, 680 grammi, forse uno dei gadget più chiacchierati degli ultimi anni. Vedremo se ci azzeccherà anche stavolta Steve Jobs con questa invenzione, questo prodotto tecnologico che ha lanciato ieri e che entro 2 mesi dovrebbe arrivare sul mercato mondiale. Oh, prima di tornare alle cose italiane, beh, già torniamo sulle cose italiane ricordandovi il sondaggio nostro, che è un po' la diatriba anche diplomatica, caso diplomatico definito ora chiuso, ma davvero con momenti di alta tensione, dopo che Bertolaso ha definito patetici gli aiuti ad Haiti una volta che è arrivato lì e si è reso conto di quello che stava succedendo. Il caso diplomatico è che Hillary Clinton si è adombrata molto. Noi vi chiediamo oggi da che parte state. Ha fatto bene Bertolaso, ha fatto bene Hillary Clinton, e dovete votare su radio24.it, anche se scopriamo, e lo scopriamo grazie a Italia Oggi che lo mette a pagina 9 come traduzione, che anche il Wall Street Journal, quindi un influente giornale americano e mondiale, il Wall Street Journal dà ragione a Bertolaso. C'è un articolo di un traumatologo. Cosa ha fatto il Wall Street Journal? Hanno messo in piedi autonomamente un ospedale, hanno mandato delle persone lì quasi nei primi giorni. Il reportage è sconfortante. La risposta degli Stati Uniti, scrive il Wall Street Journal, la risposta degli Stati Uniti al terremoto dovrebbe essere considerata motivo di imbarazzo. Il nostro intervento non ha ricevuto alcun sostegno da parte di nessun ramo del governo degli Stati Uniti. Pur avendo sentito colpi di pistola fuori dall'ospedale, non avevamo modo di proteggere gli stessi o le nostre cose. E poi ancora, siamo arrivati in ritardo, un ritardo tragico, ostacolato dagli americani, dai soldati americani. Al nostro arrivo abbiamo trovato numerosi pazienti con fratture ancora scomposte e ferite da stritolamento. Insomma, se ci fosse stato un vero comando organizzato, avremmo potuto fare molto di più. Insomma, le accuse che ha fatto Bertolaso. E allora? E come mai il Wall Street Journal dice le stesse cose? Forse che Bertolaso aveva ragione? Ne parleremo alle 8.30. Sono in rapida chiusura. Voglio segnalare solo questa. Ricordate la tragedia di Favara? La morte di due sorelline schiacciate dalle macerie della loro casa che si è sbriciolata. Il padre aveva chiesto un alloggio popolare, ma il concorso non è mai stato bandito. Il sindaco di Favara, Domenico Russello, dice: ma che possiamo fare? Qua non abbiamo neanche i soldi per pagare le bollette. Ebbene, oggi La Stampa, Laura Anello, inviata a Favara, eccolo lì, sprechi, l'altra faccia di Favara. Non ci sono i soldi per le scuole, ma il sindaco spende 35.000 euro per il suo ufficio. Ci sono anche le foto degli arredi dell'ufficio, una gara bandita per avere un tavolo da conferenza in noce, gambe sponde in massello con filetto intarsiato, scrittoio in massello di tulipie con piano lastronato intarsiato, lucidato a mano e rifinito in gomma lacca, divano Chester con rivestimento in vera pelle, poltrona realizzata in faggio imbottita con pelle nera con lavorazione capitonè inchiodata a mano, e così via. Scrive La Stampa di sfizio in sfizio. Col sito del comune tutte le foto degli arredi del municipio, tutti di pregio, ma il sindaco dice appunto non c'è neanche i soldi per pagare le bollette. Il sindaco, che reagisce anche stizzito, dice: ma che è questa cosa? Questo è qualunquismo. Forse Palazzo Chigi, siccome c'è la crisi, vende i suoi mobili? Vi lascio con questa considerazione. Votate il sondaggio, radio24.it, ne parliamo più tardi alle 8.30, ora GR24.